Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. E vi invito a continuare a visitare il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Si chiama Guardie o Ladri. Molti di voi lo visitano e per questo vi ringrazio. Mi piacerebbe che lasciaste più commenti a quello che scrivo. Spesso arrivano sollecitazioni di cui tengo conto, ma lasciate anche dei sani commenti polemici, fa sempre piacere. Allora, è tornato d'attualità il problema degli OGM, quindi delle biotecnologie. Di tanto in tanto si riaffaccia questo problema. Questa volta perché torniamo a parlarne? Perché un'associazione di agricoltori del nord Italia, che da anni si batte per l'introduzione delle biotecnologie, si chiama Futuragra, questa associazione di agricoltori, è tornato a chiedere al governo: ma caro governo, caro Ministero delle Politiche Agricole, care regioni, datevi una mossa, perché vi domando, dice Futuragra, io ovviamente riassumo in soldoni, caro governo, ti domando, ma che fine ha fatto il decreto d'attuazione che doveva essere firmato già dal 2005, con il quale si recepisce la direttiva della Commissione europea che nel lontano 2001 ha autorizzato la coltivazione di alcune varietà di OGM? Ebbene, dal 2001 al 2009, per chi si batte per l'introduzione di questo tipo di biotecnologie, è un tempo lunghissimo. Per chi invece pensa che l'introduzione di queste biotecnologie, quindi questi prodotti geneticamente modificati, non sia proprio il caso di introdurli nelle coltivazioni sul mercato, è giusto che questo tempo sia passato e magari deve passarne ancora molto. Per tornare a parlare di questo argomento, anche perché è stata presentata un'interrogazione parlamentare recentissima, noi abbiamo con noi a parlare di questo tema innanzitutto il professor Francesco Sala, che è docente di biotecnologie vegetali all'Università di Milano e anche presidente onorario di Futuragra. Buongiorno professor Sala. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo il professor Luca Colombo, che è ricercatore della Fondazione Diritti Genetici. Buongiorno professor Colombo. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E l'onorevole Benedetto Della Vedova, deputato del Popolo delle Libertà, che è proprio colui il quale ha presentato l'interrogazione parlamentare sulla mancata approvazione dei protocolli ministeriali. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, io direi di partire proprio per il fatto che è stata la sua associazione a presentare questo grido di allarme, direi di partire dal professor Sala. Allora, professor Sala, lei è sì presidente di Futuragra, ma è innanzitutto, mi permetta di dire, un professore, un ricercatore universitario, vale a dire con il quale dovrebbe garantire tutti noi sulla bontà di quello che andate chiedendo, cioè vale a dire chiedere la sperimentazione in Italia delle biotecnologie. Allora, convinca gli scettici che è possibile farlo, è possibile farlo in modo sicuro, eccetera, eccetera. Prego, professor Sala. Sì, grazie. Dunque, io premetto che sono un ricercatore pubblico dell'Università di Milano, non ho niente a che fare con le multinazionali di cui si parla in questo settore e quindi mi interesso di biotecnologie, pensi, dal 1985, biotecnologie vegetali. Sono 25 anni che esiste la metodologia, questa è applicata nella metà parte del mondo, 3 milioni di persone al mondo coltivano OGM, fanno ricerca sugli OGM e li mangiano e questo include sì alcune nazioni in cui predominano le multinazionali tipo gli Stati Uniti, il Canada, l'America del Sud, ma anche altre nazioni come la Cina, l'India ed altre asiatiche che invece hanno questa ricerca negli enti pubblici e coltivazione spezzettata tra i coltivatori, quindi c'è una cosa multivariata nello sviluppo degli OGM. Gli OGM, come dico, hanno ormai una ventina d'anni, di 25 anni di ricerca e almeno una vent'anni di utilizzo, di consumo nella popolazione. Quindi di ricerca e di sperimentazione, insomma. Di ricerca e di sperimentazione e di consumo nella popolazione. Quello di cui si parla oggi in Italia, noi stiamo parlando, è ancora la fase preliminare, cioè stiamo parlando, come dirà poi l'onorevole Dalla Vedova, non ancora di coltivazione, ma di perlomeno di permetterci di continuare nella sperimentazione. Le faccio presente che fino al 2001 l'Italia era tra le prime 3-4 nazioni al mondo nel settore della sperimentazione delle piante OGM. Sperimentazione pubblica sempre, quindi università, certo. CNR, enti sperimentali di ricerca, i ministeri ci finanziavano, tutti i gruppi, buoni gruppi italiani erano finanziati e abbiamo fatto in campo, quindi oltre al lavoro in laboratorio, in campo più di 250, che 251 sperimentazioni in campo. Queste sono state immediatamente bloccate nel 2001, quando ministro allora era Pecoraro Scanio, perché ci venne detto a noi sperimentatori smettete di fare queste cose sporche e piuttosto dedicatevi sì. a studi di medicina che salvano le vite. Benissimo, allora io la interrompo un attimo perché volevo precisare un po' i contorni di quello che diceva il professor Sala, perché effettivamente circa 250 progetti di ricerca attivi nel 2001 sono venuti poi meno, eravamo ai primi posti della ricerca, siamo ovviamente a questo punto diventate un fanalino di coda. Professor Sala, siccome io non sono un giornalista buono ma sono cattivissimo innanzitutto con me stesso, le chiedo questo: lei ha esordito dicendo dietro di me, dietro le mie spalle non ci sono multinazionali, sono un ricercatore di un'università pubblica, dietro di me non ho queste grandi multinazionali. Va benissimo, sa come dicevano i latini, no? Excusatio non petita, accusatio manifesta, vale a dire scusa non richiesta, accusa manifesta. Qualcosa del genere. Comunque, insomma, una difesa, una risposta che non è stata richiesta, dietro di sé c'è la magari, come dire, un retropensiero e quindi è una difesa che nessuno ha chiesto e che invece l'interlocutore si sente di dare. Allora, perché io le faccio questa osservazione? Ma lei comunque, come presidente onorario, rappresenta diversi agricoltori del nord Italia, molti agricoltori del nord Italia. Ecco, ma poi gli agricoltori, voglio dire, a chi poi si rifanno nel momento in cui debbono acquistare prodotti, volenti o nolenti, alle multinazionali? Quindi non è che in maniera indiretta lei comunque sposa, magari anche non volendo, ma ce lo dica lei, la volontà, il pensiero, il retropensiero delle multinazionali. No, guardi, io sono innanzitutto, appunto, presidente, ho accettato questa carica di presidente onorario del Futuraga da pochi mesi e sono contento di passare un po', cioè dal mio studio universitario a qualcosa di pratico, di applicativo. Ecco, per quanto riguarda appunto queste che ci può essere dietro la multinazionale, io dico sempre che le multinazionali fanno il loro mestiere, il loro business è anche quello di fare semi e fanno semi delle grandi colture che in pratica sono mais, orzo, cotone e poche altre, perché altre non convengono loro economicamente. Tutte le colture di interesse nazionale e soprattutto per l'Italia di cui si parla di prodotto tipico di alto prestigio eccetera, prenda non so il pomodoro, la vite, molte altre cose, devono essere migliorate geneticamente dalla nostra ricerca nazionale, non possiamo aspettarci che le multinazionali lo facciano. Quindi quello che a me interessa è che queste applicazioni vengano fatte nell'interesse nazionale per proteggere il nostro prodotto tipico. Noi attualmente, io continuo a ripeterlo, stiamo perdendo i nostri prodotti tipici ad uno perché da 10 anni ormai i fondi per la ricerca sono calati a zero e i prodotti tipici non sono qualcosa caduti dal cielo, sono il prodotto della grande ricerca scientifica che hanno fatto dei buonissimi genetisti italiani nell'ultimo secolo e i prodotti tipici come si fanno si perdono, nel giro di 10-15 anni bisogna sostituirli con altri prodotti tipici. È come parlare di industrie automobilistiche e dire abbiamo fatto delle ottime industrie automobili fino al 1985, fermiamoci a quei modelli, o si va avanti o si perde tutta benissimo. La possibilità competitiva. Allora, io interrompo qui il professor Sala dicendo ai miei radioascoltatori che ovviamente torniamo domani su questo tema ancora con gli ospiti che oggi ho presentato e prima di andare dall'onorevole Dalla Vedova volevo chiedere al professor Colombo che cosa l'ha convinta nel discorso del suo collega professor Sala. C'è da dire che noi come Fondazione dei Diritti Genetici già in una lettera di un anno fa circa, del 20 novembre, indirizzata all'onorevole Prestigiacomo e all'onorevole Zaia, quindi nelle vesti di ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, avevamo preso posizione relativamente all'apertura di questi protocolli di sperimentazione, perché probabilmente è necessario fare ricerca, è necessario capirla bene, però a determinate condizioni, e tenendo però presente anche che la ricerca transgenica in pieno campo fa probabilmente riferimento a un mercato inesistente. Quindi c'è una considerazione di opportunità di carattere generale. Noi naturalmente vogliamo che questa ricerca si realizzi, ma si realizzi dentro siti pubblici, sotto una vigilanza precisa delle istituzioni e dentro un quadro che vogliamo di responsabilizzazione dei ricercatori, quindi si assumano loro la responsabilità, diano garanzie effettive sulla innocuità rispetto ai sistemi agrari e ai sistemi ambientali in cui queste sperimentazioni si vanno a creare. Come dire, sciogliere definitivamente questo equivoco su chi è contro o pro l'innovazione, insomma è un po' una caricatura questa. Benissimo, allora io la interrompo qui, professor Colombo, perché domani ripartiremo da lei e dall'onorevole Della Vedova per trattare ancora di questa tematica, e dico ai nostri radioascoltatori che partiamo dalla Fondazione Diritti Genetici, che nel passato non era stata propriamente vicina a chi voleva innovare, sperimentare e fare ricerca, quindi ben venga questa apertura di credito da una fondazione che nel passato non era poi così indulgente nei confronti di questi temi. Dico grazie in regia Roberto Scaltritti e in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.